stai? Vino Iodice. Oh, come vai? Sei bene? Abbastanza. Che si dice? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Offensiva Sansone, palla che passa, ancora acqua fresca, adesso sul lato corto il cross arretrato, Sansone, il Bologna è avanti, attenzione in area di rigore, Pascuato, incredibile, Pascuato invece mette il cross, palla verso Salamon, Melchiorri di testa, traversa, incredibile. Allora, abbiamo avuto l'ultimo verdetto della stagione. Sto aspettando Pardo che sta salendo le scale. Sto aspettando voi che potete chiamare al telefono 800 24 00 24. Bologna dunque che torna in Serie A con buona pace Lotito, chissà se sarà contento. Lotito che però ha altri problemi, come avete sentito anche nei giornali radio, indagato per tentativo di corruzione. Allora, se tutto risale a quella telefonata rubata da Iodice, io non vedo dove stiano i problemi, ma magari ci sono cose che non sappiamo, quindi è inutile che mi scriviate cosa diranno oggi Gente Pardo a proposito delle notizie riguardanti Lotito. Diranno ancora che è un gran dirigente sportivo e che dobbiamo aspettare le sentenze. Vabbè, aspettare le sentenze è un principio di civiltà, quindi... dobbiamo lapidarlo sulla pubblica piazza. Volete lapidare Lotito sulla pubblica piazza? Se volete fatelo voi. Aspettiamo le sentenze, aspettiamo gli sviluppi di questo caso che è ancora abbastanza fumoso, se almeno tutto è riconducibile a quella telefonata con Iodice, di cui si conosce ormai qualunque cosa. Ciao Pierluigi, come stai? Arrivo! Come stai? Bene, tutto a posto. Ho annunciato che stavi salendo le scale, stavo per fare la radiocronaca. Here we go. Scesa. Come va? Benissimo. No, c'è chi ci scrive cosa diranno oggi Gente Pardo a proposito di Lotito, che è ancora un grande dirigente sportivo e che dobbiamo aspettare le sentenze. Certo, dobbiamo aspettare le sentenze, dicevo io, oppure possiamo anche andare a lapidarlo in piazza, sì, del, sì, a Campo dei Fiori. 800 24 00 24. Tanto il Bologna è tornato in Serie A. Sì, e questa è una notizia che farà felice lo scherzo. Però l'ho detto io. Ah, ok, perfetto. Beh, diciamo, no, insomma, è inutile girarci attorno dal punto di vista dei bacini di utenza. Chiaramente Bologna è una grande città, una grande piazza, non che Pescara non lo sia, lo è anche Pescara. Devo dire che, insomma, per quello che si è visto in questi playoff e in queste ultime giornate, non ce ne vorrà Dario Rossi, che sentiremo fra poco. Il Pescara forse meritava di più, diciamolo senza forze, no? Cosa diciamo del nostro amico Max Oddo? Bravo, eh? Bravo, bravissimo. Fra l'altro stiamo aspettando anche che mi risponda, perché magari lo facciamo intervenire. Ha fatto un grande lavoro, devo dire. Un grande lavoro. Poi, in pochissimo tempo il grande allenatore lo vedi nel medio-lungo periodo. Però insomma lui aveva un periodo molto corto davanti a sé e ha fatto quasi il massimo. Mi verrebbe in mente un paragone, ma meglio non lo facciamo, perché sennò poi no, che insomma, si è fermato all'ultimo metro di un'impresa, okay. Di un'impresa assolutamente leggendaria, sì. E con due pareggi, con molte recriminazioni, con un palo all'andata, una traversa al ritorno, insomma, sinceramente è stata veramente una grande avventura. Il Bologna, è chiaro che quel vantaggio di poter gestire il risultato se l'era guadagnato nel campionato. Beh, certo, comunque chiaro. Qualche punto in più l'aveva avuto, certo. Però non è mai stato un Bologna completamente convincente e ci vorranno investimenti per l'anno prossimo. Beh, però insomma è una Tacopina gli ha promessi, eh? Poi lo chiediamo a Dario Rossi, però assolutamente non ci fermiamo, è solo il primo gradino, volevamo solo tornare in Serie A, i mattoni del Dallara, nuovo stadio, grandi idee, grandi progetti. Senti, poi ne parliamo anche di questo, ma ci sono due gialli, lo sai, no? Non cartellini, due, Due gialli, sì. Uno è Sarri che... quando annunciamo Sarri, boh, se sa, è stato cercato Montella che pare abbia declinato, però è curioso il fatto che Sarri, allenatore in pectore del Napoli, non sia ancora stato annunciato e non ci siano tempi precisi per l'annunciazione di Sarri. Il secondo giallo è quello di Ibrahimovic, cioè Milan rivuole Ibrahimovic, ma intanto Gagliari sta volando verso Porto per trattare Jackson Martinez. Beh, ma non sono incompatibili Jackson Martinez e Ibra, no? Dici? Beh, dipende che budget hai, quindi insomma. Ma tu come lo vedresti Ibrahimovic, un ritorno di Ibrahimovic? Io Ibra lo vedo sempre bene. Ma anch'io, per me è un idolo. Ibra totale. Secondo me è il giocatore che, partendo dal presupposto, ma non sa di che vecchio sono... Milan, Pierluigi, che... non sa di vecchio Milan che riporta a casa. Ibra sa di fenomeno di vecchio, poi magari non è quello di 2-3 anni fa, però beh, guarda, Ibra per me è un giocatore che io lo prenderei, fossi la Roma lo prenderei, fossi il Napoli lo prenderei, fossi la Lazio lo prenderei, cioè è un giocatore che secondo me il soldi lo prenderei per farlo giocare nel giardino di casa. No, ma al di là degli aspetti, diciamo, di simpatia personale e caratteriale, idem, secondo me è il giocatore che se tu ti devi scegliere, a parte vabbè Cristiano Ronaldo e Messi, un giocatore capace di farti fare il salto di qualità da solo, per me è Ibra, perché per quella che è la dimensione del calcio italiano, e l'ha dimostrato sia negli anni alla Juve, che negli anni all'Inter, che negli anni al Milan, lui è uno che fa reparto da solo, lui è uno che molto spesso, soprattutto per le grandi squadre che giocano contro squadre che si chiudono, vince le partite da solo, e quindi secondo me è molto più di Higuain, molto più di Tevez, che pure sono i due fenomeni assoluti dell'attacco del nostro campionato, è uno che secondo me è in grado di annullare o comunque di ridimensionare molto le differenze che in questo momento ci sono fra tutte le altre e la Juve. Quindi se il Milan vuole con un colpo di bacchetta magica cercare di avvicinarsi, e secondo me è il mago Zlatan, sì, è la soluzione migliore. Io sono un devoto di Ibrahimovic, però a me, cioè, essendo il Milan a queste operazioni di riciclaggio del grande talento scappato all'estero, non... Vabbè, ma voglio dire, cioè, lui ha giocato con tutte le squadre del mondo praticamente. Sì, quindi voglio dire, comunque, sa di vecchio Milan perché è la stessa strategia. Sì, ma non è Ronaldinho, non è Ronaldo, cioè non è Ronaldo il fenomeno quando venne preso dal Milan, non è il calciatore di grande fascino nella parte calante della sua carriera. È ancora, secondo me, uno di quei 5-6 giocatori che possono fare la differenza. E ti ripeto, secondo me, per la dimensione del nostro calcio è perfetto, è l'ideale. Vai proprio sul sicuro. 800 24 00 24, abbiamo il traffico, poi torniamo. L'ultima cosa, si è ironizzato un po' sul mal di pancia di Ibrahimovic all'inizio della settimana. È vero che hai mal di pancia? Mi fa male pancia quando vedo te. Grazie. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati all'800. A tutte le unità, al signor Delio Rossi, il suo telefono non prende, la stiamo adesso contattando, adesso, fra poco la ascolteremo. No, però ti ricordi, si sposti in una zona di maggiore campo, signor Delio? Secondo me è sulla collina di San Luca. Beh, insomma, sai che San Luca per i bolognesi è un luogo, no? Magico, un luogo. Ricordi quando fece il bagno nella fontana dopo il derby vinto? Al Fontanone, sono passato l'altro giorno davanti al Fontanone, devo dire tutto spento davanti. Beh, una cosa meravigliosa. Vabbè, chiusa la parentesi, però San Luca è un luogo sacro per i bolognesi, sì. Insomma, qui ci vorrebbe un Luca Carboni a spiegarcelo, perché insomma è un luogo che unisce sacro e profano, quindi ha una sua sacralità religiosa, ma è anche ovviamente il luogo dei pellegrinaggi laici per ringraziare San Petronio e San Luca. Certo. E ieri devo dire la verità che insomma Bologna qualcosa, no? Come si fanno a non prendere uno che risponde così a un giornalista? Ibra un mito, scrive Gianni da Verona. Un interregina di molti anni fa, 2007, roba del genere. Davvero? Sì, sì, io facevo la telecronaca, c'era Nebuloni a bordo campo e quello era alzato, salutiamo. Però. No, Nebuloni quello. Non era il giacco. Nebuloni, cosa dici a chi dice che hai il mal di pancia? vedo mal di pancia quando vedo te, quando vedo te Nebuloni. Poi ovviamente non è che ce l'avesse con Nebuloni in assoluto, ce l'aveva in quel momento in generale col mondo, quindi il povero Nebuloni c'era soltanto finito in mezzo, ma senza colpe specifiche. È la sua grandezza. Di Nebuloni, no, di... lo salutiamo Max. Salutiamo Max Nebuloni e lo convochiamo pure se vuole intervenire. Sì, lo... 800240024 che vale per tutti. Poi viene anche Beninazzo. Sì, quindi, sì, quindi, io devo capire tutto. Dove va il Parma? Cioè, la Sora Camilla? Sì. Più o meno così, però tutte le aste andate deserte e quindi... No, fra l'altro con la possibilità, se la cosa andrà a buon fine, di un ennesimo uomo del mondo della cinematografia, no? che potrebbe entrare, ma insomma tutto molto da vedere, visto che poi sono soltanto manifestazioni vaghe di interesse. Io ti dico, poi chiedo a Beninazzo del Parma, gli chiedo dell'accordo di Mr. B e del Milan, se ci sono novità e quali sono le evoluzioni, gli chiederò dell'impasse del Napoli, perché questo di Sarri è un discreto mistero, dei diritti TV, perché ha parlato Pier Silvio Berlusconi, poi sentiamo anche Marta Cagnola, che è andata alla conferenza stampa, ci ha mandato tutte le voci Pier Silvio Berlusconi, poi... magico mondo di premium, tornata entusiasta. Tra l'altro Sandro Sabatini arriva a Mediaset. Vabbè, voglio dire, lo sapevi? Certo lo sapevo. Perché non me l'hai detto? No, te l'ho detto perché non era ufficiale da ieri, giornalisti. Credo, no? Salutiamo anche Sandro Sabatini, sì, lo convochiamo, sì, naturalmente 800240024. Mentre aspettiamo di prendere degli orossi sulla collina di San Luca, Luca da Torino invece. Buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo da Torino, però diciamo sono bolognese di adozione, cuore fortitoso a dismisura. Sì, su questo... ne abbiamo partite tante a livello di basket, sì. Infatti aspetto ancora che i famosi 7 scudetti vengano revocati, ma in Italia diciamo la giustizia non viene mai riconosciuta. Abbiamo un campionato che secondo me quest'anno è stato tra i più farlocchi, squadre tipo Parma non doveva neanche partecipare, a Lazio con giocatori arrestati, squalificati, capitani. Non generalizziamo, eh. No, ma sono sempre lì, dice, ma questo è un altro discorso. Insomma, voglio dire, qui in Italia ci sono le regole e come ci sono, vengono calpestate, violate, stuprate, lodi sperticate a una squadra che è nata in finale e dopo non si dice che la casa madre ha una evasione legalizzata. Se no sarebbero sotto ricatto, Renzi sotto ricatto, perché diciamo pagano le tasse all'estero, stiamo discretamente generalizzando, parliamo di una squadra per quanto riguarda la presunta evasione della Fiat, se non l'ho capito male, sì. C'è Barisoni alle 5 che l'accoglie a braccia aperte, ci perdoni, non abbiamo proprio, cioè, mi sembra che la Fiat, come molte altre aziende, però non vorrei dire inesattezze, abbia chiaramente internazionalizzato, per cui ha dei plant di produzione in Italia, altri all'estero, e insomma non mi sembra che sia una situazione soltanto italiana, sia piena di molte, o che riguardi solo la Fiat, adesso non voglio difenderla, me ne può fregare di meno, però mi sembra che sia una situazione di molte altre aziende, e sul resto non lo so. Guardi, il Bologna qualche anno fa, sicuramente nell'anno in cui venne retrocesso contro il Parma nello spareggio, sicuramente pagò una condotta e un fair play finanziario che altre società non avevano, su questo non ci sono assolutamente dubbi, quindi su questo le do non ragione, di più. Poi adesso generalizzare tutto, per cui direi di no, insomma l'Italia ha mille problemi, ma il discorso è talmente vasto e talmente enorme che mi sembra insomma un po' vago. E anche sullo Tito aspettiamo di capirne di più. Sullo Tito aspettiamo, anche perché poi c'è sempre quella famosa telefonata. Posso dirti, processi in pubblica piazza, sulla pubblica piazza a me fanno abbastanza disgusto. No, io le notizie di cronaca. Ti dico che mi sto rendendo conto sempre di più, lavorando sempre di più nei mezzi di comunicazione in questi anni, di quanto sia ormai più la parte mediatica di certi processi della parte vera e propria, della parte giudiziaria, cioè per rovinare la vita di una persona. Adesso non so se questo è il caso di Lotito, ma in assoluto lo dico perché dobbiamo usare grande rispetto per tutti, fin anche per Blatter, voglio dire, fin anche per la FIFA, che ovviamente ci sta anche, no, un po' sulle scatole, perché diciamo che erano nell'aria, però veramente ci sono tante vicende. Vi ricordate la questione, per esempio, che riguardava Gattuso? Com'è finita? Non lo so, com'è finita quella storia lì? Per una settimana non si parlava d'altro e sembrava che fosse del mostro di Corigliano Calabro, faccio per dirti, no? Poi non lo so, magari non sarà ancora finita. Ma anche su Mauri, cui faceva riferimento chiaro il nostro ascoltatore, no? Anche su faceva riferimento a Mauri, sono problemi giudiziari suoi, è chiaro. Assolutamente, lì la situazione è chiaramente molto più complessa, però voglio dirti, il principio vale per tutti, il principio deve valere per tutti, perché i mezzi di comunicazione hanno un potere enorme e lo diciamo noi che facciamo questo lavoro, quindi siamo consapevoli, ci autodenunciamo di avere questo potere e ci vuole grande attenzione da questo punto di vista, perché poi molto spesso ci sono delle cose che sono delle notizie di persone che vengono indagate e poi nessuno va a controllare, o magari si perde nella notte dei tempi e poi vieni assolto anni dopo, ma intanto hai perso la sentenza quanto, pubblica, no? È già stata emessa, ecco. No? Come esce una notizia, la pubblica sentenza è già stata emessa, e a me giuridicamente è una cosa che fa orrore questa, e lo dico tutte le volte, che sia Lotito, che sia però sai, non Mauri, è che puoi impedire che ai magistrati, ci mancherebbe altro, di indagare. No. I magistrati indagano e fanno pienamente il loro lavoro, ci mancherebbe altro. Oggi abbiamo questa notizia di cui non sappiamo nulla. Secondo me siamo noi che tutte le volte che c'è una persona che viene inserita nel registro degli indagati, dobbiamo avere tutte le cautele, le prudenze, ricordare che è semplicemente inserita nel registro degli indagati, cioè c'è un'indagine su di lui. Questa indagine non si sa se verrà archiviata o se andrà avanti, se andrà avanti porterà un processo, ci sarà un processo, potrà essere giudicato colpevole o innocente. Cioè siamo all'inizio dell'inizio e non sappiamo nemmeno su che cosa si basa, perché adesso siamo all'indiscrezione. Questo riguarda riguarda Lotito oggi, può riguardare un altro domani mattina chiunque. Lotito, Berlusconi, Preziosi, tutti quelli che volete voi. Oggi abbiamo una notizia secondo cui Lotito è indagato per tentativo di corruzione, non si capisce sulla base di, non è chiaro al momento sulla base, ore, ma ci mancherebbe sulla base altro, insomma, di, però, di che cosa via. Se poi ha fatto un tentativo di corruzione, ha fatto il mascalzone, speriamo che paghi il debito che deve pagare. Detto questo, le notizie di cronaca sono quelle che vi abbiamo dato. Raffaele Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono tifoso del Napoli sostanzialmente. Volevo capire onestamente, anzi sapere soprattutto da voi, cosa ne pensate del fatto, ad esempio, della scelta di Aurelio De Laurentiis, che prima ha orientato verso l'allenatore vincitore della Europa League, Emery, e poi praticamente verso Spalletti, si parlava di Spalletti, di Prandelli, no. Si parlava di tutta una serie di allenatori comunque di un certo livello. Adesso praticamente la scelta di Sarri, che sicuramente è un buon allenatore, ma non mi sembra che abbia tutta quell'esperienza per fare tenere il Napoli a grandi livelli. Ecco, l'esperienza non ce l'ha. È anche vero che l'esperienza te la fai vivendo le cose, cioè manca, come succede a tutti i debuttanti a un certo livello, manca la controprova. Cioè noi oggi, lei ha perfettamente ragione, non abbiamo la certezza e nemmeno la fondata possibilità di pensare che Sarri sia esperto per questo ruolo e che farà bene. Manca anche l'esempio contrario, nel senso che non avendolo mai fatto, non avendo mai allenato una grande squadra, non sappiamo come se la caverà. Magari è un predestinato. Guardiola, prima di allenare il Barcellona, non aveva allenato nessuno. Conte, prima di allenare la Juve, portandola comunque a vincere 3 scudetti consecutivi, aveva allenato, con tutto rispetto, Bari, Atalanta e Siena. Quindi voglio dire, c'è sempre Guardiola che ha fatto il triplete, appunto, sì, dicevo Guardiola. Ci sono anche gli esempi contrari. La Juve prese Ferrara, ricorderete, dopo Zaccheroni, con quel tipo di suggestione non è andata altrettanto bene, per citare soltanto un esempio. Però insomma, voglio dire, finché tu non hai una possibilità No, ma sai, l'aspetto comunque curioso di questa vicenda è che Sarri non è stato annunciato dal Napoli e non ci sono tempi certi per la conferma ufficiale di Sarri al Napoli. Queste, anche qui siamo nel campo della cronaca pura, non stiamo inventando niente. Giovanni da Teramo, dai, poi facciamo la borsa. Giovanni, buongiorno. Sì. Dica. Salve, grazie, buongiorno, grazie per la convocazione. Io niente, volevo solamente ricollegarmi un po' alla telefonata di prima dell'amico bolognese, del discorso che facevate, che l'altra volta il Bologna perse uno spareggio in maniera un po' sfortunata col Parma. Io credo che il risarcimento però l'ha avuto quest'anno, perché forse era dai tempi del Milan di Zaccheroni, quando vinse lo scudetto giocando il peggior calcio d'Italia, che non si vedeva una squadra che insomma avesse tutta questa fortuna, perché sia contro l'Avellino che contro il Pescara, di cui io sono tifoso, ma a prescindere da questo, perché nutro anche una profonda simpatia per il Bologna, per i bolognesi e per lo stesso Delio Rossi, che stimo tanto, però in questi playoff credo che insomma il Tagopina credo che si è salvato di poco, le coronarie stavano per saltare, perché ha avuto talmente tanto di quella fortuna che è un piccolo risentimento quella retrocessione dell'altra volta. Ma so, può pure essere, però io non, cioè, soprattutto su un campionato come quello, come quello di Serie B, cioè andare in Serie A solo con la fortuna non ho mai visto nessuno. Quindi il Bologna si è guadagnato un vantaggio e poi alla fine ha monetizzato questo vantaggio. Sì, sicuramente, e ribadisco, ma lo sanno gli stessi tifosi del Bologna, insomma, in queste due partite è stato certamente fortunato, insomma, anche nel finale di ieri, prima ancora della traversa, c'è stata un'altra palla gol importantissima. E quindi, insomma, non, la sostanza è questa, però il Bologna aveva il vantaggio della parità. Che le dava ragione nei 180 minuti, non aveva brillato nemmeno contro l'Avellino, però insomma ha portato a casa questo traguardo. Conta il risultato finale. De Laurentiis ha spinto Montella a rompere con la Viola, pagherà la clausola e chi rimarrà preso in giro e a piedi è Sarri, altrimenti avrebbe già firmato, scrive Luca. 349 238 6666, questo è un bel mistero. Ci vediamo per la borsa. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Ecco, ci siamo tornati. Stavo parlando di panettoni col professor Paolini, il gastronauta. Che uomo meraviglioso è. Io lo vedo e mi viene fame proprio di qualità. È una cosa incredibile. Tra l'altro, 27 e 28 giugno ci sono delle cose. Poi sì, Paolini, qua al Sole 24 ore, poi Paolini me le spiegherà. È periodo natalizio, 27 e 28 giugno. Bene. Certo, panettone. Emanuele, provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Tre flash veloci, essendo tifoso di Milan, Vicenza e Bassano. Per quanto riguarda Milan, Venezia, Vicenza e Bassano. No, Milan, Vicenza e Bassano, chiedo scusa. Milan, allora, Vicenza e Bassano, Milan, va bene. Milan. Ibra a quelle cifre e a 34 anni lo ritengo un'assurdità. Aria nuova, per favore. Per quanto riguarda il Vicenza, abbiamo perso contro il Pescara, che era la squadra sicuramente più in forma, però ritengo che a livello regolamentare una squadra che arriva settima, ottava, adesso non ricordo, sia una forzatura che rischi di andare in Serie A. Vabbè, per quanto riguarda il Bassano, dura Lex, sed Lex, se così è stabilito diventa, non si cambia le regole, è un dibattito aperto, possiamo discutere aperto, cioè, a me i playoff nel calcio non piacciono, per esempio, dica. Poi? Ma credo, è una forzatura. Poi permettetemi, perché era il vero scopo della telefonata, ho seguito il mio Bassano in Lega Pro tutta l'anno. Sì. La Lega Pro è una Lega da azzerare per l'incapacità organizzativa di chi la gestisce e per le vicissitudini che ho visto in campo e fuori dal campo. Vi do due velocissimi esempi. Novara prima su 8 punti e dopo 5 e ci mettono a pari. Trasferta Venezia Bassano ore 18 di una domenica sera, peccato che l'ultimo treno per ritornare alle 20. O ci siamo persi mezza partita o abbiamo trovato un'alternativa. Cioè è una lega da azzerare, è vergognoso ciò che io ho visto un anno di campionato. Vi ringrazio, perché era il vero scopo della mia telefonata. Tant'è, e chiedo scusa, nonostante le mie mail alle tre leghe, nessuno in sei mesi mi ha mai risposto. E ho sempre scritto in maniera, diciamo, corretta. Le crediamo sulla parola. Quanto alle coincidenze dei treni, non credo sia, voglio dire, questione che riguarda la Lega Pro. La Lega Pro è una specie di Far West, questo lo sappiamo bene. Ci sarebbero lì sì delle regole da scrivere, possiamo denunciare tutto quello che vogliamo. Un'altra cosa che credo, sicuramente se ne parla spesso tutte le volte che poi si arrivano a formulare delle ipotesi, diciamo, di gente che viene indagata per le scommesse, è che in tutti i campionati nei quali l'elemento economico non è particolarmente forte, forse insomma, soprattutto sotto la Lega Pro, ma la Lega Pro già siamo al limite, il fatto che si possa scommettere con così tanta facilità rischia di essere un boomerang. Ah, certo, abbiamo sicuro, sentito mille volte fare questo ragionamento dai giornalisti che seguono queste competizioni, anche dagli stessi dirigenti, proprio perché insomma il calciatore non deve avere alcun dubbio, anche dal punto di vista economico, che gli convenga sempre vincere. Questo è il punto di partenza, non deve mai avere un dubbio da questo punto di vista. Secondo me diceva quello, a pensare male si fa peccato, eccetera eccetera, però se tu dici Lega Pro a ottobre non ti arrivano più i soldi, poi può essere un'istigazione a fare delle altre cose, a fare delle altre cose. È inutile che chiaramente facciamo le illegali, chiaramente illegali però... e mortali, perché secondo me la il commercio delle partite da parte di professionisti sull'altro tema invece, l'altro tema è interessante, nel senso che poi sicuramente c'è un fondo di verità in quello che dice l'ascoltatore, c'è un approccio diverso. I playoff sono un modo di sovvertire l'ordine costituito in 38, 42 giornate, addirittura 82 nel caso della NBA. Ma non basta. Per regalare dello spettacolo. Quindi sono d'accordo da un punto di vista. È come i sistemi elettorali. Il sistema elettorale più giusto è il proporzionale secco, però poi lì se no magari non governi. E qui forse non ti diverti. Quindi sì, il meccanismo è un meccanismo. Devo dire, a me piace. A me il playoff di B piace, perché comunque insomma con tre promozioni, due vengono stabilite comunque sulla regular season e una sul playoff, insomma è un meccanismo divertente. Poi è ovvio che una squadra che è arrivata terza rispetto a una che è arrivata settima dopo 42 partite solo meriti di più. Su questo non c'è anche qui facciamo della filosofia. A me, io sono un grande sostenitore dei playoff, a me non piace il playoff applicato al calcio, perché secondo me è uno sport che mal si configura per questo tipo di è uno sport dove esiste il pareggio, già questo esattamente. Se poi giochi i playoff una palla che una serie al meglio delle 5 delle 7 partite, allora fa parte del gioco ed è la sua bellezza anche sovvertire un pronostico scritto lungo tutta una stagione sul campo. Pierpaolo, Firenze, buongiorno. Ciao, ciao, grazie di essere stato riconvocato. Dove va Montella? A casa non so dove va Montella, so sul caso che ero molto attento a quello che dicevate voi a proposito della Lega Pro. Come tutti sanno, il calcio mondiale muove circa 1,5 miliardi di persone. Questo 1,5 miliardi di persone la settimana che viene mossa dal calcio può scommettere anche 2 euro a testa. Fate due conti e vediamo quanto il calcio muove, e da qui arriviamo anche all'Otito, capito signori? Come ci arriviamo all'Otito? All'Otito ci arriviamo che naturalmente non lo vogliamo lapidare, vediamo cosa dice i GIP delle varie situazioni, la magistratura, esatto. Cosa dice, però sicuramente c'è del marcio in Danimarca, insomma qualcosa sicuramente succederà. Spero sia una bella bolla di sapone, anche perché la squadra laziale è una bella squadra. Sull'avverbio non sono d'accordo. Vediamo a che cosa porta questo processo, vediamo che cosa c'è sotto, perché per adesso abbiamo delle notizie di cosa... siamo al registro degli indagati, questo no? Procedimento, sì, appunto, quando c'è una cosa di questo tipo, ci sono delle indagini preliminari che possono portare o all'archiviazione o al rinvio a giudizio, quindi siamo ben prima del processo. Detto questo, per carità, vediamo, ci mancherebbe altro, insomma. Sì, comunque sapete, vi confido un segreto, io ho una piccola web radio e noi abbiamo appunto appurato nelle settimane scorse all'interno della nostra programmazione, abbiamo parlato anche del calcio, del Buglione, anche con lo scandalo di Blatter e compagnia cantante. Sì, però non mettiamo, ma in dubbio, non mescoliamo le mele con le pere. Ma anche lì, voglio dire, adesso qui è arrivato Beninazzo. Eccolo qua, ciao Marco. Cerchiamo di essere un po' smart, nel senso che poi il professor Beninazzo la settimana scorsa diceva sicuramente c'è della ciccia dietro al mandato di cattura, agli arresti, alla collaborazione tra polizia svizzera e polizia americana, poi però c'è anche un retroscena di carattere più strettamente politico, vedo Beninazzo che conferma e annuisce sul fatto che i famosi mondiali non sono stati dati agli Stati Uniti, per cui insomma, mi rendo conto che è un mondo difficile, no? Nel senso che poi ogni cosa, alla fine, se non ti fidi di nulla, perdi punti di riferimento. E... però, insomma, lì, per esempio, Benignazzo è abbastanza clamoroso, no? Il... beh, io credo che sia la prima volta in cui in un G7 si parli di calcio. Sono intervenuti il portavoce di Obama, la Merkel, Putin, sembrava davvero una questione più di politica estera, da guerra fredda, da muro di, cosa che più, di Berlino, che, ancora che è abbastanza, piedi, no? Questo vi fa capire come ci sia veramente una evoluzione globale di attenzione verso il calcio, che può essere un business, è un business per chi lo sa fare bene, e chi ha fatto bene in economia, come hanno fatto bene in questi anni Cina e India, vogliono mettere le mani anche su questo business. E io credo che, appunto, dietro quello che è accaduto a Blatter e ai suoi sodali della FIFA sia un modo, un messaggio degli Stati Uniti per accaparrarsi i prossimi mondiali e per evitare scherzetti. Senti, abbiamo un sacco di domande per te dopo il traffico, Marco Bellinazzo. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo qui con me, è arrivato Marco Bellinazzo, ma soprattutto, cioè, lo ringrazio ed è un grandissimo Massimo Oddo, perché io credo che abbia dormito pochissimo stanotte. Credo che il rodimento di scatole sia stato tanto nel suo Pescara, ma stavano dicendo prima che ha fatto un lavoro incredibile. Ciao Massimo. Buongiorno a tutti. Pier, non te lo chiedo come va, prima ci ho provato e mi ha risposto in maniera poco radiofonica. Com'è il giorno dopo? Rode perché a questo punto avrei preferito perdere 4-0 e aver giocato malissimo. Almeno avremmo potuto dire che non ce la saremmo mai meritata questa, invece purtroppo non è così, però questo è il calcio, dobbiamo accettarlo. Onore e merito al Bologna, che ha conquistato la Serie A, e a noi ci rimane comunque un percorso positivo e una grande fiducia, perché insomma la squadra ha dimostrato tutto il suo valore e ancora una volta nel calcio ti piacciono i playoff? Prima un ascoltatore ci ha detto: beh, però insomma chi arriva terzo è giusto, anzi in questo caso quarto, è giusto che abbia un vantaggio rispetto a chi è arrivato dietro in classifica. Ti piacciono i playoff? Cioè, secondo te questo meccanismo funziona perché favorisce lo spettacolo, oppure in realtà rischia poi di cambiare gli equilibri delle 42 partite precedenti, anche se tu poi in realtà rispondi soltanto di una partita della regular season, fra l'altro vinta? Ma diciamo che in linea di massima, se vogliamo, è anche giusto così, perché è normale che chi arriva davanti debba avere per forza qualche vantaggio. Il vantaggio era la possibilità di pareggiare due partite, e perché poi fondamentalmente ha fatto più punti in campionato ed è stata più brava. Ma il nostro è stato un percorso difficilissimo, perché abbiamo giocato più partite, molte più partite ravvicinate, e poi lo svantaggio di dover vincere per forza una delle due partite, o comunque di dover vincere assolutamente. Questo sicuramente conta, e questo è il grande vantaggio. È andata così e va bene. Questo è il calcio, rode tanto, perché sul campo abbiamo dimostrato che sicuramente non eravamo inferiori. Senti, in pochissimo tempo hai dato tantissimo a questa squadra, hai portato tantissimo a questa squadra. Banale chiederti come hai fatto, perché non lo so, però è evidente che hai dato tantissimo a questa squadra in un pugno di settimane. Beh, come ho fatto? Alla base c'è la qualità della squadra, perché se la squadra non avesse avuto dei valori tecnici in campo sicuramente non potevi raggiungere questi risultati. Quindi la certezza è che questa squadra aveva comunque dei valori importanti e l'ha dimostrato sul campo. Quello che ho cercato di fare io è di portare un po' più di serenità, un po' più di coraggio, e questo va merito ancora di più a questi ragazzi, a tutto il gruppo, perché dal primo giorno si è messo a disposizione, ha creduto fortemente a questo sogno. L'anno prossimo? L'anno prossimo vediamo, aspetto che la società si esprima su questo capitolo, vedremo. Tu sei, insomma, se loro ti dicono, e secondo me, insomma, che croce per come te la sei cavata, sì, dovrebbero dirti questa cosa, tu, insomma, non ci sono problemi, vuoi, è lì che vuoi continuare? Ma sì, ma io ho appena sei partite in Serie B, ci mancherebbe, io sono pronto a tornare anche in primavera con grande umiltà, quindi ho fatto il mio dovere, ho fatto il massimo e vedremo se la società mi consentirà di proseguire un certo tipo di lavoro, ne sarò orgoglioso. Senti, premesso che l'ho detto prima, insomma, non me ne vorrai, gli allenatori come i giocatori si giudicano nel lungo periodo, quindi insomma sarebbe assurdo adesso farti i monumenti soltanto perché hai fatto delle buone partite, delle ottime partite in certi casi, però l'inizio è stato straordinario, è inutile che ce lo nascondiamo. Tu che lettura dai di quello che è successo? Cioè, se oggi ti devi dire bravo, e su che cosa? Che cos'è che sei riuscito a fare di questo gruppo a livello di energia, una squadra che sembrava in calo e che invece hai rigenerato in pochissimi giorni? Ma la prima cosa che mi viene da dire è che probabilmente il mio carattere è compatibile ad essere allenatore, nel senso, sì, io ho cercato solo esclusivamente di essere me stesso. Secondo me le finzioni nel calcio contano poco, alla fine la tua personalità viene sempre fuori. Io sono stato me stesso, non ho finto di nulla, ho sempre detto quello che pensavo e mi sono comportato alla stessa maniera come se avessi avuto la primavera, e questo ha portato i suoi frutti, e questo è merito ovviamente del mio carattere, del mio essere, dell'essere me stesso, ecco. E in più, ripeto, il merito va ai ragazzi che hanno creduto in quelle piccole cose in cui credevo io, hanno sposato appieno quello che dicevo io e l'hanno fatto e dimostrato sul campo. Ibra lo prenderesti al Milan se fossi Galliani? No. Ok. Perfetto, adesso c'è il traffico, poi il GR. No, dico di no, ma non perché lui è un grandissimo calciatore. In questo momento il Milan credo che non debba fare l'errore probabilmente che ha fatto anche l'anno scorso, cioè quello di voler ricostruire qualcosa di importante con alcuni nomi importanti. Se vuoi ricostruire, devi ricostruire, ma tra virgolette, cioè con la R maiuscola, cioè affidarti sicuramente a giocatori di categoria, ma soprattutto ai giovani. Noi nel nostro piccolo l'abbiamo dimostrato, bisogna dare fiducia a questi ragazzi, perché quando io ho messo in campo in una partita così importante come l'ultima per andare ai playoff Torreira, e poi l'ho confermato nelle altre partite, ero sicuro e certo di questo, ho avuto coraggio, se vogliamo chiamarlo coraggio, però poi c'è sempre la risposta di questi ragazzi che se valgono va data fiducia, ma soprattutto il coraggio di essere allenatori. Grazie Max, in bocca al lupo, in bocca al lupo Massimo. Buone chitarrine, allora. Pescara c'è la chitarrina, c'è. Allora ci fermiamo un attimo, Marco Perinazzo, Pierluigi Pardo qui con noi, dopo il GR parliamo di tutto quello che volete. Non si rendono conto che il tempo è finito, finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Ciao a tutti. Oh, ricordati, sono venuto qui per vincere e questo anno vinciamo tutto. Grazie! Cuore rossonero, Zlatan Ibrahimovic! Spengo il telefono, il mio cuore, così che se mi richiami non puoi parlarmi. Ibrahimovic non lo sento, purtroppo non lo sento. Sempre preoccupato, non risponde. No, io non l'ho più chiamato, l'ho chiamato qualche volta e non mi ha risposto. Sento tutti gli altri, ma non Ibra. Ma poi l'accendo e lo rispengo, fino a farlo morire. Certo, c'è da lavorare molto per diventare Ibra. Ho visto il gol che ha fatto a parte il rigore ieri sera, e Ibra ha veramente un marchio di fabbrica straordinario. L'hai scelto tu di non chiamarmi più, meglio così se non ti sento più. Ma c'era una bellissima pubblicità della team, era una telefonata lunga la vita. Triangoli di luce nel palmo della mano. Tutti convocati, Pierluigi Pardo qui con me. Abbiamo sentito Lucio Dalla in un giorno speciale per Bologna, no? Quindi è una doppia citazione. C'è un De Luca scatenato, come direbbe Piccinini. Eccezionale, eccezionale De Luca. Ibrahimovic è tornato al Milan, dunque è ufficiale. Ibra, Oddo su Ibra secco, riprenderesti Ibra? No, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me per me Ibra fa eccezione, ma Ibra fa eccezione in generale, Pier, però hai già fatto cacà, hai già fatto non lo puoi dire in radio, dai. Hai già fatto cacare, non si può dire, dai. Ci sono dei limiti. Vabbè, che dici, Farinazzo? Riportaci nel mondo dei bilanci. Nel mondo dei bilanci, ma soprattutto nel mondo delle fantasie che possono concretizzarsi finalmente per i tifosi del Milan dopo anni di parametri zero, di cavalli di ritorno o di tentativi di far sembrare oro qualcosa che semplicemente luccicava. Ora abbiamo. Guarda, facciamo così. Adesso ti lancio Repubblica e tu leggi questo titolo. È vero, l'ha lanciata, eh? Ecco, l'ha lanciata. Mister B, re del mercato, Ibrahimovic dice sì al Milan, via alle grandi manovre per attaccare il regno Juve. Beh, io l'ho raccontata, insomma, in questi giorni questa vicenda. Sì. Forse hanno. Vabbè, è chiaro che tutta la strategia, tutta questa operazione si regge sul fatto che Milan l'anno prossimo vada in Champions, perché l'aver acquistato una quota per ora, e sottolineo per ora, di minoranza del 48% per 480 milioni, si legge, si giustifica soltanto nell'ottica di una quotazione che avverrà nel giro di un anno e mezzo, e che permetterà di ristabilire poi tutte le Marco, quello che i milanisti vogliono sapere è quanti soldi ci sono per fare il mercato, cioè il Milan quanta disponibilità economica ti faccio le domande del bar dell'angolo. Ti posso dire che in questo momento i soldi non servono nemmeno per fare mercato per quanto riguarda il Milan. La forza che in questo momento ha il Milan con l'alleanza col gruppo Doyen è tale che paradossalmente non è nemmeno importante quanti soldi ci siano a disposizione, perché arriveranno giocatori di prima fascia, arriveranno giocatori importanti che faranno fare al Milan quel salto di qualità indispensabile, ripeto, per andare in Champions, perché questo è il progetto economico, e quindi il progetto economico di Mister B e soprattutto della cordata che è dietro Mister B, perché Mister B, ricordiamo, non è l'acquirente del Milan ma è un broker. Sì, certo. E dopodiché ci sarà oggettivamente la possibilità di fare una grande squadra. Da questo punto di vista io non ho dubbi, altrimenti si verificherebbe lo stesso problema che si è verificato per l'Inter, vi ricordate? Certo. Arriva l'offerta di Toir a maggio, si chiude a novembre, si è perso un anno. Certo. E questo con danni enormi, perché si è aumentato l'indebitamento. Invece a questo punto, con i soldi che entrano, si riduce l'indebitamento. Se vuoi una cifra, ti posso dire che parliamo di una cifra intorno ai 150 milioni, e che probabilmente diciamo permetterà questo tra ingaggi e cartellini, ma soprattutto il progetto tecnico prevede che si rilanci immediatamente l'immagine del Milan. Capito, per okay. sfruttarla sul mercato asiatico. Capito. E vi posso aggiungere un altro dettaglio per cercare di fare chiarezza. Si è detto il Milan 1 miliardo, no, come proiezione. Effettivamente è troppo, perché le altre squadre, il Manchester United, valgono molto meno, il Bayern Monaco vale meno. Ecco, il problema è posto in maniera errata, perché questi 480 milioni pagati paradossalmente potrebbero essere sufficienti per avere il controllo poi del Milan. In che modo? Cioè, quando ci sarà la quotazione, anche se ufficialmente nessuno ne ha ancora parlato, e ci sono ancora, ricordiamo, entro fine luglio poi il contratto si chiude, saranno collocate sul mercato delle azioni, e in quel caso ci saranno acquisti, cessioni, basterà avere, diciamo, la maggioranza relativa, per cui non costerà 1 miliardo avere il controllo del Milan o avere tutto il Milan, ma potrebbe bastare questa somma attualmente impegnata per avere il controllo del Milan o poco più. Quindi questo questo dilemma su quanto vale il Milan va bene per i ragionieri, ma insomma non si attaglia bene alle logiche finanziarie. Va bene anche per Agnelli farsi questo tipo di domande, però la cosa importante è che capito per il Milan tornerà subito competitivo. Beh, questa è la sensazione, è una sensazione molto forte, mentre scusate, il maestro Piccinini ci scrive squisiti, lo ringrazio doppiamente, eccezionale, incredibile. Convochiamolo, fatti convocare Picci, sentiamoci ogni tanto. Magari domani lo chiamiamo. Però no, il discorso sul Milan mi sembra un discorso di grande buonsenso. Insomma, poi c'è stato questo accenno polemico nella conferenza stampa di Agnelli, che in qualche modo Bellinazzo ce lo confermerà, ha dei fondamenti, nel senso che poi il Milan è stato valutato per una cifra che dal punto di vista tecnico è una cifra che sembra sproporzionata, certo, no, spropositata oggettivamente lo però è. Il valore di un marchio è una delle cose più difficilmente misurabili, credo, in assoluto. Non soltanto nel mondo del calcio in generale, no? E quindi poi alla fine la forza di attrazione di nuovi investitori, di nuovi capitali e di iniziative commerciali in tutto il mondo è chiaramente, ripeto, è la partita che si giocherà qui. Il nuovo poi Milan. C'è un'altra cosa da dire, che una delle società, delle banche che finanzia Mr. B è una banca che si chiama Citic, una banca cinese, che ha anche una squadra che gioca nel campionato cinese, la squadra di Pechino, quindi ha già un, come dire, un know-how calcistico, certo, e ha un forte interesse in quanto è controllata dal governo cinese, che sappiamo sta investendo tantissimo sul calcio. E da qui torniamo e leghiamo anche il discorso che facevamo prima sulla geopolitica, su Blatter, su tutto quello che è accaduto. Lo stesso investimento Vanda, del gruppo Vanda nell'Atletico Madrid, risponde a questa logica. Per cui è chiaro che in questo momento, se tu guardi e fai un puro calcolo ragionieristico, un miliardo per il Milan è una follia. Ma ripeto, c'è quel discorso della quotazione in borsa che potrebbe sicuramente permettere un controllo, una maggioranza relativa, certo, con una somma molto più bassa, perché alla fine questi compreranno il Milan per 500 milioni e non per un miliardo. Se le cose andranno in un certo modo. E in secondo luogo c'è il fatto che il Milan ha il brand più noto al mondo, e riportarlo subito in Champions significa poter avere importanti ritorni, in particolare in Asia. È quello che diceva Pierluigi, cioè ma assolutamente è quasi un paradosso di marketing, se vogliamo. Adesso veramente stiamo facendo focus economia, però insomma è un chiamiamo Barisoni. Senti, il resto che cosa c'è di caldo nel Parma? Di caldissimo c'è che sulla via Emilia, mentre ridevano e festeggiavano a Bologna, si piangeva a Parma, perché ieri non è arrivata nessuna offerta. Però stamattina i curatori, che hanno incontrato il comitato dei creditori con il giudice che è delegato al fallimento, hanno aperto a delle trattative con quei soggetti che hanno presentato delle manifestazioni di interesse, quindi non delle vere offerte, ma una generica manifestazione nel dire siamo interessati a Parma. Il nodo, entro il 12 c'è la trattativa privata, sì, no? Il nodo vero qual è? Che c'erano 74 milioni ufficialmente di debito sportivo, in realtà poi hanno fatto delle verifiche i curatori, siamo arrivati a 88, sono stati bravi a portarlo a 22, quindi con 22 più 4, che era l'ultimo valore della società, ci si portava a casa una bella realtà del calcio italiano, piena di storia, e mi meraviglia come nessun imprenditore italiano importante si sia fatto avanti. Detto questo, chi ha fatto queste manifestazioni di interesse ha posto però ulteriori condizioni all'acquisto. Una di queste è la risoluzione della maggior parte dei contratti in essere tra il Parma e gli oltre 100 giocatori che sono ancora nella lista, nell'organico della società, cosa che quei curatori fallimentari non possono fare, perché ovviamente chi acquista teme che poi ci possano essere delle cause per gli stipendi non percepiti. Per esempio, i curatori hanno stabilito che chi è stato acquistato dal Parma e poi prestato e non ha mai indossato nemmeno per un minuto la casacca ducale non abbia diritto a nulla, e questa è una decisione che può essere impugnata, per cui chi acquista vuole avere in qualche modo la certezza poi di non dover tirare fuori. Quando ho sentito soldi. Questa cosa, da un lato chiaramente è una buona notizia, no? Perché dal punto di vista del risultato sportivo, più riesce ad abbattere il debito sportivo e più aumentano le possibilità di salvare il Parma. Dal punto di vista giuridico mi sembra una follia, cioè, se io ho firmato un contratto con te per giocare, questo contratto ce l'ho e tu mi devi pagare, non è che siccome non sono sceso in campo, no? Credo sono stato in prestito, cioè, a meno che non ci sia una giusta causa, un mio comportamento Tu mi hai chiamato e io non ho voluto giocare, ma se io ero a disposizione e tu non mi hai fatto giocare, infatti, non è colpa mia. Infatti il problema si pone per tutti quelli che non hanno formalmente accettato questa riduzione o hanno formalmente rinunciato a dei soldi e i quali hanno legittimamente il diritto di rivolgersi al tribunale. Questo è normale. La vera tristezza, ripeto, è che non ci sia nessun imprenditore italiano o straniero che voglia fare questo investimento. Forse stanno aspettando la zona Cesarini, mi sa che sta arrivando. Prendiamo Joey Saputo, imprenditore canadese, che non a caso ha una squadra nel Montreal nella MLS, che ha preso il Bologna per circa 40 milioni, è riuscito con investimenti insomma importanti, ma non mi pare così eclatanti, sulla rosa a migliorare la squadra, a portarla in A. L'anno prossimo si ritroverà un assegnino da 30 milioni solo per i diritti TV, più altri 15-16 milioni tra parte commerciale e parte legata allo stadio, quindi 50 milioni in cassa con cui si è ripagato già l'investimento. Mi sembrano calcoli abbastanza semplici, ti ripeto, mi meraviglio come purtroppo il calcio in Italia sia diventato talmente anti-economico nella concezione degli imprenditori che nessuno si faccia avanti. Allora, Marta Cagnola, buongiorno! Buongiorno, che bello quando mi convocate, come mi sento felice. Dove sei, Cagnola? Dove sei? Sei tornata o sei... Allora, no, adesso ve lo dico, sto andando da una conferenza stampa a un'altra, mi sta accompagnando un'amica in macchina, quindi non sto guidando. Vabbè, io, lo dettagli dico sull'amica, ecco. Com'è l'amica? I bionda? Sull'amica, ma subito così, ma... Ma no, non li volevo, mi sono distratto un attimo, no, appunto i dettagli non... Ecco. No, ma in realtà tornando direttamente da Santa Margherita Ligure. Certo. La dura vita, della cagnola che è andata alla presentazione dei nuovi programmi, dell'offerta premium. Cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi di Pardo? Guarda, io ho provato a chiedergli, lui mi ha detto, mi ha guardato con l'aria un po' smarrita, mi ha detto, ma Pardo chi? Lavora a Mediaset? Ma fa una trasmissione che si chiama Tiki Taka. No, scherzo, non è vero, sto facendo uno scherzone a Pierluigi. Ragazzi, aggressiva Mediaset Premium, ruggente. Cioè, che si è detto? Allora, si parlava magari un po' di pace tra Mediaset e Sky, farà un accordo, vedrete che sulla Champions League l'accordo ci sarà, ma quando mai? L'accordo non ci sarà, non solo, le partite della Juventus in Champions League saranno solo su Premium fino a gennaio, quindi le fasi iniziali della Champions solo su Premium, quindi niente in chiaro, quindi andranno Roma e Lazio. Punto di domanda, Lazio. Speriamo. Ci auguriamo la squadra, certo. Ecco, probabilmente su Italia 1. Quindi scelta coraggiosa, diciamo una grossa scommessa sulla Juventus e sugli abbonamenti. Sì. Stavo ritwittando adesso per Luigi Pardo, quindi penso che l'abbiate già annunciato. Arriva Sandro Sabatini, quindi un'altra bella professionalità Medias Premium. Grande investimento sulla Serie A con i diritti ancillari, spogliatoi, prima intervista dopo la partita, diritti d'archivio, quindi una bella costruzione giornalistica e insomma si è parlato anche di cinema e di serie TV, ma credo che ho un po' l'impressione che a voi interessi un filino meno. Ci sono grandi cose, vabbè. Veramente una cagnola scatenata, l'abbiamo scatenata. Grazie Marta. Scatenata. Ciao. A presto, convocatemi ancora. Ciao, facciamo partire lo spot e diamo il numero per abbonarsi. Sentire Berinazzo cosa ne pensa di queste cose che ci ha detto. È chiaro che si è creata una contrapposizione molto forte tra i due player, no, della pay TV italiana. Io oggettivamente dal punto di vista finanziario capisco, io ho un punto interrogativo diciamo sull'impegno finanziario importante che si è assunta Mediaset Premium tra Serie A e Champions, perché ha offerto 100 milioni in più sulla Champions e perché ha 330 milioni di impegno finanziario sulla Serie A, è chiaro che è una grande scommessa, ma era forse l'unica strada per dare un senso a questo, a questa, sì, concorrenza, no, con io, questa cosa della Juventus che comunque sarà solo sul canale Pay, quantomeno per la prima fase, a me ha lasciato, cioè, è vero, una manovra molto aggressiva. Beh, sono anche un po' in imbarazzo, ovviamente lavorando non per una società che fa cioccolato, però credo che questa, che fra l'altro ho saputo anch'io da Marta Cagnolo, ho letto sui siti in queste ore, sia la dimostrazione di quanto sia importante il prodotto Pay in questo momento. Quindi a costo, è chiaro che la Juve è una squadra con tanti tifosi, però si preferisce, chiedo conferma a Berinazzo, si preferisce avere un ascolto magari un po' inferiore sul chiaro, proteggere un'esclusiva di un prodotto così importante. La vera scommessa sarà appunto quanti abbonati passeranno da Sky a Mediaset godersi la Juve. Questa è la grande scommessa di Mediaset. E anche in generale quanti nuovi abbonati ci saranno. Da quello che ho letto sempre sui siti, i prezzi, vabbè, però insomma, veramente, no, poi qualcuno ci scrive che marchettone. È un discorso molto interessante. Sono io in imbarazzo qui, dai. Ma sai a quanta gente interessa questo discorso? Ci sono una realtà di 4-5 milioni di famiglie che non si è mai abbonata a una Pay TV e che potrebbe entrare sul mercato, per esempio, che offre una fascia di prezzo inferiore come Mediaset Premium, e qui non stiamo facendo insomma, ma semplicemente la cronaca finanziaria, che potrebbe essere interessata a prescindere, diciamo, dal lasciare Sky a questo nuovo prodotto, a questa nuova Mediaset Premium. C'è sullo sfondo sempre il discorso di un possibile nuovo socio che entri nel circuito televisivo italiano. In particolare, in passato si era parlato molto di Al Jazeera, ma oggi più che mai si parla di Vivendi, di Vincent Bolloré, di Canal Plus, insomma, che hanno una storia, una tradizione importante, che hanno i diritti del campionato francese insieme ad Al Jazeera. Sicuramente è il momento delle grandi sinergie, è anche una conferma, e cioè che il calcio è il driver fondamentale per le Pay TV, non lo scopriamo oggi, ma lo è diventato in tutto il mondo. Beh, la fusione che è stata fatta la scorsa estate, insomma, tra la realtà inglese, quella tedesca e quella italiana, nasce per rafforzare l'offerta, per diminuire i costi e per dare equilibrio all'intera azienda. Per me è chiaro che dal punto di vista degli osservatori finanziari, quando c'è concorrenza, quando c'è una situazione così importante di conflitto tra virgolette tra due competitors, non ne può che guadagnare il mercato e quindi di conseguenza i consumatori. Avere un solo operatore significa comunque che qualcuno ci va a perdere, di solito ci vanno a perdere i consumatori, perché un solo operatore non può che aumentare i prezzi, certo, essendo un monopolista, certo. Ma questo lo si insegna, insomma. Sì, anche se questo è un mercato strano, perché da un certo punto di vista il consumatore vorrebbe vedere tutto con una sola piattaforma. Io credo che chi ci rimette in una situazione di monopolio, ed è un po' il discorso che ha fatto Infront, ma in qualche modo sicuramente lo stesso discorso che fa anche l'UEFA, sono coloro che vendono i diritti, e quindi poi le società di calcio a livello italiano, a livello europeo, nel senso che comunque la competizione che c'è stata è stata vera, al di là delle congetture che sento da mesi su presunti accordi che non ci sono stati, sì, però insomma la guerra in senso buono, insomma la concorrenza che c'è stata fra questi due soggetti ha consentito sia a livello italiano le società tramite Infront di spuntare una cifra molto più alta rispetto al passato, e anche a livello europeo all'UEFA di spuntare una cifra più alta, certo. Ma questa successo già 3 anni prima, quando era stata la precedente allocazione. Poi chiedo a Barisoni conferme, ma credo siano le leggi del mercato. Vi saluto, ragazzi. Se ne sei uscito con una classe inaudita, sì. Le leggi del mercato. Io vi saluto con questo messaggio: io me la vo a vedere al bar. Ah sì, ma non ci sono assolutamente. Stasera dove vedi Milano-Sassari? C'è anche Torino-Agrigento, eh? Sì, c'è anche Torino-Agrigento, Milano-Sassari la vedo a casa, e anche Torino-Agrigento, le guardo tutte e due, e poi magari faccio note con l'NBA. Poi domani ti lascio da solo. Ma io devo andare giù domani. Devo. Fa fatica. Ciao, domani, ragazzi. Devo andare in Basilicata. È dura la vita, quasi come la Cagnola. Sì, allora grazie a Pierluigi Pardo, a Marco Berinazzi, a Giovanni Vecchione in redazione, Giorgio De Luca nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Ormai siamo una folla totale qui. Domani, ragazzi, dopo le 14. Ciao. Pochi secondi ormai. Si aspetta solo il fischio finale. Eccolo.